piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Secondo me sarebbe utilissimo, con ovviamente i dovuti modi, insegnare sin dai piccoli regole di pronto soccorso. Io sostituirei l'ora di religione con un'ora di prevenzione. L'ora di religione va tolta, perché la religione è una cosa seria e la religione, come si fa a scuola, è veramente l'ora dove si fa di tutto tranne che religione. Io sono favorevole a cultura della digitale, soprattutto dell'insegnamento delle relazioni, come gestire le relazioni sul web. Il sottotesto di questo programma è il piacere del dubbio. Io mi sono preso il lusso di esprimere qualche dubbio, nella piena liceità, di ognuno di fare le scelte che vuole, e ho parlato dell'ora di religione. Ne ho parlato, che era uscito un articolo su Affari Italiani, parlava di un concorso per confermare un numero di insegnanti religione. Ho premesso che non ero interessato assolutamente, né era la mia volontà mettere in dubbio i posti di lavoro di chi insegnasse religione, ma mi ero posto in una prospettiva più ampia di libertà di pensiero, di espressione, di attenzione alla contemporaneità, di immaginare se ancora fosse realistico nella società che noi stiamo vivendo in questo momento pensare che ci fosse nella scuola pubblica un insegnamento di una religione, ammesso che la religione su cui è fondata la nostra cultura, la nostra tradizione storica. Se fosse ancora pensabile che chi insegna questa disciplina debba essere scelto da un vescovo, nonostante che sia poi pagato dallo Stato italiano. Ma su questo, senza poi farmi altri problemi, ho detto: ma se voi poteste immaginare, pensare, studiare una scuola nuova, naturalmente passando per tutte le garanzie, le rettifiche e le possibili riletture di quello che è il diritto, la Costituzione, le norme vigenti, la volontà, il Parlamento e via dicendo, cosa pensereste? Avevo fatto tre proposte, dico: ma secondo me sono tre i campi in cui vedo delle grosse lacune. L'uno è quello delle educazione al pensiero scientifico. Oggi nessuno sa esattamente cosa sia il metodo scientifico, se non ci sarebbero dei movimenti di opinione così potenti che ancora mettono in dubbio quella che è, diciamo, l'evidenza scientifica. Non è vero, esiste un altro tipo di scienza. Chi dice che i vaccini non fanno diventare autistici fa parte di una parte della scienza, quella che è al soldo delle multinazionali. Esiste un'altra scienza. Beh, questo è fondamentalmente frutto di una profonda ignoranza. Il metodo scientifico va oltre quelli che possono essere i normali e sicuramente imprescindibili condizionamenti che molte volte ci possono essere al mondo dell'industria. Educazione alla salute e alla prevenzione. Oggi i ragazzi non sanno esattamente quale sia un principio per mantenersi sani. È inutile arrivare ai ripari quando si è già vecchi, anziani, e correre al riparo per l'obesità, per le malattie a trasmissione sessuale, per tutta una serie di ragioni. Educazione alla salute. Ma pensavo così, una volta era educazione all'igiene, adesso educazione alla salute in senso più ampio. Terzo, un sostituto di quella che era l'educazione civica, si faceva una volta nelle scuole, allargato a quella che sono le nuove frontiere del diritto legate alle relazioni digitali. Il frutto del maggior disagio e del maggior pericolo che oggi sentono le famiglie per i ragazzi arriva proprio alla loro incapacità di gestire le relazioni attraverso il mondo digitale. Su quello ho fatto una trasmissione con il mio pubblico, come sempre faccio, hanno partecipato tutti, sono intervenuti anche dei professori di religione. Abbiamo discusso seriamente di questo, senza dire che volevamo cambiare nulla o mandare nessuno allo sfracello. Beh, è uscito subito dopo un comunicato abbastanza veemente dello SNADIR, che è il sindacato degli insegnanti religione, titolo: replica Radio 24, basta bufale. Leggo l'incipit, così poi dopo entriamo in merito. Dice: la riflessione proposta dal conduttore radiofonico Gianluca Nicoletti durante la puntata di oggi, 2 novembre, del programma Melog, ricopre una veste laica, un'idea assolutista e faziosa nei confronti di un pensiero di ampie vedute come quello cattolico. Quindi, visto che io non mi reputo fazioso, mi reputo aperto a tutti i dibattiti, mi reputo sereno nel esprimere le mie idee, che non vogliono cambiare nulla, ma vogliono avere solo il diritto ad essere espressi, oggi do piena facoltà di parlare al rappresentante del sindacato degli insegnanti di religione. Orazio Ruscica, buongiorno. Buongiorno. Segretario nazionale dello SNADIR, Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione. Perché io sarei fazioso? Ma per il semplice motivo che durante la trasmissione tre o quattro affermazioni non sono corrette. Le corregga. Quando lei afferma che l'insegnamento della religione è concordatario, è un orpello fascista, insomma, è come se lei affermasse il conseguimento dello Statuto Albertino, della Costituzione italiana, è la stessa cosa. Il primo è stato concesso la nostra Costituzione. Scusi, ma se di antivedute non alzi la voce, lei dovrebbe insegnare la tolleranza e la fratellanza, la voce. Ma abbia pazienza. No, io è pazientissimo. Se mi fa finire. Ma non c'entra niente lo Statuto Albertino col fascismo, viene prima. Ma viene prima. Abbia pazienza, mi ascolti. Sì, l'ascolto. Per esempio, lei citando l'orpello fascista dimentica che l'insegnamento della religione contenuto e affermato dal periodo fascista era un insegnamento che era concesso dallo Stato, era un fondamento e coronamento. Invece quello che adesso è stato accolto nel 1984 e quindi siamo in pieno regime repubblicano, sì, chiaramente è diverso, perché i motivi non sono quelli del 29, ma sono principalmente due. Primo, perché è riconosciuto il valore della cultura religiosa, e secondo, perché i principi del cattolicesimo fanno parte del nostro patrimonio. Sì, ma in sostanza cosa cambia, scusi? Cambia notevolmente, perché la legittimità dell'insegnamento della religione a scuola non è una semplice dottrina cristiana concessa per essere impartita, ma è invece un riconoscimento che la nostra cultura italiana, e lei pensi semplicemente al fatto che la nostra cultura italiana è impregnata dei principi del cattolicesimo: non uccidere, non fare agli altri ciò che non vorresti. Sì, ma questo, guarda. L'uomo ha una dignità non discutibile e primaria. La terra deve nutrire tutti. Sì, vabbè, non mi faccia la predica, Ruscia, vada al punto, perché poi mi dia modo di dire. Niente, scusi, ha detto una cosa che. Scusi, no, non voglio essere sereno in questo. Mi faccio parlare anche a me. Sì, lasci per. Queste sono interpretazioni, io sto parlando di fatti. Queste sono dati reali, è così. Vabbè, senta, vogliamo continuare a parlare così fino alla fine? Mi permette di controbattere il mio punto. Dico, io non ho detto cambiate nulla, cambiate niente. Mi viene l'idea che in realtà i tempi cambiano. Se anche nell'84 Craxi ha riconfermato il concordato e confermando questa cosa, benissimo, sono scelte politiche. Motivi diversi. Lei può girarla come vuole, non faccia il prete, mi scusi, fa l'insegnante di religione. No, io sono laico. Abbia pazienza, sono cristiano cattolico. Ma anch'io sono cristiano cattolico, perché è lei lo più di me. Però mi pongo dei dubbi, se permette. Mi confrontiamo, dico che sia un retaggio fascista, rimango della convinzione, perché oggi l'idea laica dello Stato non dovrebbe, in qualche maniera, in un ambiente concordatario, in un concordato che non voglio mettere in dubbio, perché mettere in dubbio il concordato ci potrebbe troppo lontano, mi sembra singolare che esista nella scuola italiana. Ma non voglio, guardi, l'ultima delle mie intenzioni è mettere in precarietà l'idea che non ci possano essere o possano perdere il posto gli insegnanti di religione, sfiguri, faccio un discorso al di fuori di questo, dico, le sembra normale che ancora esistano i professori che decide il vescovo, che il vescovo decide, allora, mi sembra normale. Ma sa che questo è un fatto molto importante. È importante, ma è folle. I nostri studenti hanno un insegnante che è doppiamente qualificato, cioè un insegnante che è riconosciuto dall'ordinario diocesano per quanto riguarda la legittimità dell'insegnamento, sì, e quindi la correttezza. E da parte dello Stato anche la verifica che questo insegnante è abilitato ad insegnare tale disciplina. Quindi diciamo che nel sistema scolastico italiano l'unico insegnante che è doppiamente qualificato, doppiamente verificato, è l'insegnante religioso. Però mi faccia parlare, su, sia gentile, ha parlato, parlo anche io. Doppiamente qualificato che non segue tutti gli iter che seguono gli altri scolari, gli altri insegnanti, non passa per le graduatorie degli altri insegnanti. Come? Decide. No, Come no? Lo Stato italiano fa un concorso, bandisce un concorso e verifica se quello è in grado di insegnare o meno. E viene messo in una graduatoria, c'è un primo, un secondo, un terzo. La graduatoria degli insegnanti di religione, poi degli insegnanti. Certo, come c'è le graduatorie. Ma sono quelli che ha deciso il vescovo, No, quelli che hanno l'abilitazione per insegnare. Poi le faccio un esempio paradossale. Lei è insegnante di religione. Sì. Lei decide a un certo punto di cambiare la sua vita, si divorzia, si risposa, quindi non è più adeguata a fare l'insegnante di religione. Cosa le succede a lei a questo punto? Il vescovo dirà: tu non puoi più insegnare religione. Lei cosa fa? Ma certo, perché l'insegnamento della religione. Io non insegno più religione. Però rimane a carico della scuola italiana. Cosa insegna? Certamente, perché lo Stato giustamente l'ha verificato, come mi ha verificato come un docente in grado di impartire l'insegnamento di religione. E se io sono non solo di religione, insegnante, ha capito? Perché verifica se io sono in grado di insegnare. Non verifica lo status se io cosa devo insegnare dal punto di vista della teologia appartiene, la verifica dell'ambito culturale appartiene all'ordinario diocesano, mentre lo Stato verifica se io sono un insegnante. Nel momento in cui io supero il concorso, lo Stato dice: tu sei un insegnante in grado di insegnare. Chiaramente mi viene revocata l'idoneità se io sono con il possesso di altri titoli per poter insegnare altre discipline, avendo lo Stato verificato che sono in grado di insegnare, passo a insegnare altre discipline, appunto. E questa è una tutela più che legittima. Ma fermiamoci un attimo, questo primo punto. Vorrei sentire anche un'altra parte, perché in qualche maniera vorrei sentire anche cosa pensa chi si occupa in altre maniere della scuola, perché sennò facciamo un discorso a senso unico. Premetto, non mi importa nulla, non voglio, il mio non è un discorso ateo o come quelli che fanno tentativi, diciamo, di togliere il diritto di esprimersi religiosamente. Mi sembra un po' strano che una società, per come si sta articolando, ancora esistano degli insegnanti che sceglie un vescovo, si mettono insieme agli altri insegnanti, prendono lo stesso stipendio, stanno assieme, possono continuare a insegnare altre cose quando il vescovo decide che non sono più degni di farlo. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, Stefano Morigi è un filosofo, è uno storico della scienza, ha scritto un libro insieme a Marco Dallari, Educare, bellezza e verità, Erickson Edizioni. Ha scritto un altro libro, La scuola spacca, scritto con Antonio Incorvai, Edizioni San Paolo, oppure Beati quelli che sapranno pensare con le macchine, Edizioni San Paolo. Quindi Stefano Morigi è un filosofo della scienza, ma ha scritto anche libri con la casa editrice San Paolo, che è una casa editrice di ispirazione confessionale. Allora, Stefano, senza entrare nelle questioni sindacali, che non è di mio interesse, secondo te è folle pensare e immaginare che in una società futura ci possa essere anche un atteggiamento diverso nei confronti della liceità di esprimersi nel pensiero religioso, di educarsi al pensiero religioso? Quanto ha a che fare con l'insegnamento scolastico ancora la norma concordataria che deve essere l'insegnamento religioso messo fra le discipline scolastiche? Tuo punto di vista? Sì, io la metterei in questi termini. Come tu gentilmente ricordavi, io mi occupo anche di scuola, di modelli di didattica aumentati dalle tecnologie e quindi anche di una riflessione su quali potranno essere o dovranno essere gli obiettivi formativi della scuola, cambiando i tempi, evolvendo le macchine, evolvendo anche i valori, che poi sono sempre degli strumenti con cui tentiamo di rappresentarci nel mondo e di convivere nel mondo. È opinione piuttosto diffusa, non mia, ma condivisa dalla comunità scientifica che si occupa di queste discipline, che la scuola dovrà sempre più diventare meno istruttiva e più educativa. Che cosa significa? Istruire vuol dire mettere dentro, educare vuol dire tirare fuori. Allora, una scuola dovrebbe smetterla un po' di somministrare contenuti spacciati come veri e, come dire, insinuare più l'atteggiamento del dubbio, come dicevi tu, che è un dubbio metodologico, metodico, l'atteggiamento della ricerca, il pensiero critico. Allora vedi, questa questione va al di là dell'ora di religione, pur includendola, perché ammettere l'ora di religione così come è stata concepita e presentata significa ancora presupporre in maniera più o meno esplicita che ci siano dei valori che, in quanto tali, non entro nel merito dei valori, quali che siano, vadano somministrati dall'alto. E siano indubitabili. Io, e siano in qualche modo indubitabili, vadano recepiti come buoni, veri, da applicare in tutte le materie che si studiano nella vita extrascolastica. Io questo lo trovo diseducativo, qualsiasi siano i valori, che siano quelli della religione cattolica piuttosto che altri. Io credo che la scuola debba formare la coscienza critica e debba dare gli strumenti per. Allora certamente, per venire alla tua domanda, non solo le discipline scientifiche, ma una mentalità scientifica che non è semplicemente una somma di teorie, di dottrine, di concetti, ma un atteggiamento che si acquisisce se lo si comincia a praticare fin da piccoli, sarebbe raccomandabile. Ma questo non visto in opposizione alla cultura religiosa, quale che sia la religione, perché anche la cultura religiosa dovrebbe veramente e seriamente fare i conti con una mentalità scientifica. I più grandi religiosi sono stati maestri del dubbio, non sono stati somministratori di valori, quelli erano predicatori ideologici. I grandi mistici, i grandi campioni del pensiero cristiano che tutti noi abbiamo pensato, da Agostino a Tommaso fino alla teologia contemporanea, non erano dei, come dire, catechisti, con tutto rispetto di chi fa questo mestiere, ma erano dei maestri del dubbio e del pensiero. Fermiamoci un istante, Stefano Morigi, devo dare la linea, riprendiamo fra poco. Con serenità, con tranquillità, abbiamo esposto due posizioni, ma due posizioni che non necessariamente devono essere conciliabili. Ognuno dice quello che vuole, pensa quello che pensa. Noi esponiamo con il nostro piacere del dubbio le posizioni altrui e siamo sereni. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Vi trovate a vivere un'epoca che è quella dello sviluppo, quella in cui il corpo si perfeziona e assume tutti i caratteri tipici dell'essere uomo e dell'essere donna, con tutte le sue, come dire, condizioni, le sue problematiche e con la sua fisicità. Voi vi ritrovate in un tempo in cui il corpo si sta trasformando, in cui sta avvenendo, come dire, un'evoluzione, e contemporaneamente c'è, come dire, anche un'evoluzione di pensiero, c'è un desiderio, si fanno dei sogni, si hanno, come dire, delle brame, delle bramosie, è tutto normale. E anche la sessualità, in cui in un certo senso incomincia a manifestarsi con degli stimoli, non c'è niente di male, anzi, io dirò di più. 800240024, abbiamo riaperto la discussione sull'ora di religione, abbiamo un parterre piuttosto ampio, abbiamo una rappresentanza sindacale degli insegnanti religiosi, abbiamo Stefano Morigi, che è un filosofo della scienza che si occupa comunque di scuola e educazione, quello che avete sentito è Maurizio Longobardi, che è un insegnante di religione che mette su YouTube le sue lezioni di religione, che lui appunto svolge presso l'Istituto Comprensivo Forzati Sant'Antonio Abate, Napoli. In questo caso era una lezione di educazione sessuale. Va bene, sì, non c'è nulla di strano, va bene, se è lezione di religione cattolica, l'atteggiamento a religione cattolica è giusto che sia questo, l'esprimere questo. Sono le stesse cose che nell'anno 1970 sentivo dire dai salesiani quando facevo l'istituto salesiano. Non è cambiato molto, ma è giusto. La religione rimane immutabile nella sua dottrina. Mi scrive un ascoltatore e dice Nicoletti, sei contro l'ora di religione perché sei appecorato e al soldo dei musulmani in Palandrana. Ma figuriamoci, sono i musulmani in Palandrana. Sarei per la libera espressione felice, assolutamente incontrastata di ogni tipo di espressione religiosa. E se la religione musulmana fa parte dello Stato, non è un tipo di religione che apprezzo, come non apprezzo in questo momento, ma è un mio punto di vista, il fatto che siano dei vescovi, dei rappresentanti di un'autorità ecclesiale, a decidere degli insegnanti nella scuola pubblica. Sentiamo qualche insegnante, poi riprendiamo con i nostri ospiti. Annerina, buongiorno. Buongiorno. Sì. Guardi, quello che ha detto lei... Da dove chiama lei? Io da provincia di Roma, Castel Madama. Sì. Sono un insegnante di scuola primaria. Da quando uscita la legge che sto lottando contro questa cosa. Sono anche stata censurata dal mio dirigente scolastico perché mi sono rifiutata di votare l'adozione del libro di testo di religione, visto che io non sono abilitata, e poi ho fatto la dichiarazione. Ma lei è insegnante di cosa? Di religione? Io, no, io sono insegnante di matematica e scienze. E qual è il suo problema? Il mio problema è che io non sono d'accordo con questa storia che il vescovo sceglie, designa e lo Stato paga. Vabbè, questa è una legge dello Stato, è stato rifatto il concordato. Però io posso dissentire. Sì, ma come allora dissento anch'io? Allora, di dissenso, io mi rifiuto di votare l'adozione del libro di testo perché non sono abilitata a insegnare religione cattolica, quindi non ne ho gli strumenti, e nella dichiarazione di voto ho anche detto, e anche per esprimere il mio dissenso verso questa legge, e sono stata censurata, ma insomma me la reputo una medaglia questa censura. Beh, io non arrivo alle sue posizioni così ovviamente. Io sono più possibilista, ognuno faccia quello che vuole. Ma io voglio esprimere il mio dissenso alla legge che l'ha istituito. E quali sono i punti, secondo lei, che non trova? Allora, mediamente tutti questi anni che sono stata a scuola, insomma, la qualità non è eccezionale. Generalmente erano le persone che frequentavano le parrocchie, così non hanno superato i concorsi per insegnanti, quelli banditi dallo Stato, e hanno approfittato, l'avrei fatto anch'io, per carità, di questa opportunità. Così, questa scusi, legge... non sono sottoposte alle stesse graduatorie? No, ha detto un'inesattezza. Scusi, le graduatorie di istituto e le graduatorie di inserimento, passano anche gli insegnanti religione? No, guardi, ha detto il signore del sindacato, ha detto un'inesattezza, insomma, un po' furbesca, perché il concorso è stato fatto solo 2 anni fa e ha sanato tutta la storia di tutti questi anni. Quindi prima le designava il vescovo e la scuola non faceva altro che pigliato. La graduatoria non era della scuola. Quindi ha detto. Aspetta, fermo una, sentiamo, che sennò sembra che io voglio in qualche maniera. Il concorso è stato fatto 2 anni fa, prima non se ne facevano dei concorsi. Resti lì, Nerina, una insegnante che ha chiamato. Orazio Ruschka, ricordo, segretario nazionale SNADIR. Ma la povera insegnante Nerina non conosce bene le norme. La legge del 2003, il concorso è stato fatto nel 2004, non 2 anni fa, è un po' confusa. È stato fatto un concorso dallo Stato in tutte le regioni con delle commissioni istituite dallo Stato, dall'amministrazione scolastica, ha verificato con una prova scritta, prova orale e titoli. Sì, però è una sanatoria a tutti gli effetti. Però, no, infatti non Ma questi come erano entrati? Questi? Non sono entrati tutti, cioè tant'è vero che ne sono entrati una parte, ne sono entrati allora 15.000 e in totale sono circa 25.000 i posti per l'insegnamento della religione. Quindi un po' non sono stati idoni. No, non è che tutti sono entrati, quindi che cosa dice? È perché non conosce questa insegnante come stanno le cose. Poi è stata fatta una graduatoria con un punteggio dello scritto, dell'orale, dei titoli. Quindi, a prescindere dal giudizio diciamo dell'autorità ecclesiastica. Sì, indipendentemente. Basta. Quindi è stato valutato da una commissione. Ma che titolo di studio devono avere questi professori? Sono titoli previsti dalla cosiddetta intesa, che è quella i titoli. Ma non sono gli stessi degli altri insegnanti, cioè d'altro insegnante. No, lo stesso. Guardi, la licenza in teologia è un titolo di studio che è titolo universitario, alla pari di una laurea civile che è riconosciuta e equivalente dallo Stato. Quindi sono titoli molto, robusti dal punto di vista. Da un punto di vista di inserimento mi sembra chiaro. Poi non voglio entrare in questa materia, vedetevela voi, mi interessa fino a un certo punto. Ripresentiamo qualche altro insegnante. Io devo soltanto capire esattamente se ancora siamo un popolo che ha bisogno di persone che insegnino dottrina cristiana all'interno delle scuole, al di fuori dove vogliono assolutamente, anzi, con tutta la massima libertà di farlo, ma dentro la scuola, nella disciplina scolastica, ha un senso ancora. Antonella è caduta. Patrizio. Sì, buonasera. Da dove chiama? Da Roma. Premetto che io sono non credente, quindi questo cambia il mio atteggiamento. Io credo che questo discorso sia stato un po' radicalizzato fra cristiani e musulmani con un atteggiamento quasi da tifoseria di stadio. Ma i musulmani che c'entrano, non li ho mai nominati. Perché ho sentito il precedente messaggio che lei ha letto. No, vabbè, ma quello è il solito, è il solito cretino che scrive, non è quello da prendere. Accordato. Ciò detto, io credo che il punto sia la libertà dell'individuo. Quindi io dico, l'insegnamento della religione ha una logica se inteso come storia della religione. Perché tu, lei diceva prima, la religione serve la stessa. Non è la stessa, caro dottore. Se lei va indietro al 1100, al 1300, al 1500 e vede la nefandezza che è nata dall'interpretazione... Sì, ma io parlavo della mia misera condizione autobiografica dei salesiani di 30 anni fa. Anch'io sono stato dai padri Pallottini al San Leone Magno. Per questo adesso. Grazie per quello che mi riguarda, ma non intendevo dire questo. È lecito che si tratti di religione, ma bisogna dire tutto sulla religione, il che vuol dire anche dire la storia delle religioni. Allora diventa libera la persona di scegliere. Cioè una storia comparata delle religioni. Sì, tu non puoi presentare l'ultima versione che ti fa comodo perché corrisponde al marketing che la Chiesa ha sempre fatto. No, tu presenti tutta la storia e più correttamente possibile. Allora la persona potrà giudicare. Questo è il mio punto. Sì, ma non perché necessariamente debba farsi poi un convincimento su quale regione scegliere, perché fa parte della cultura. Si sarebbe meno ignoranti, scriverebbe meno gente ti appecori alle palandrane dei musulmani se ci fosse un'idea un pochino più serena e un pochino più informata di quelle che sono le religioni. Mi fermo un istante, poi parla Stefano Morigi, perché l'ho tenuto zitto fino adesso. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento. Log 800240024, insegnamento della religione nella scuola. Si consoli, mi scrive Riccardo da Mantova, penso. Presto dovrà dissentire per la nomina dell'imam pagato dal ministero per insegnare religione islamica alla maggioranza degli studenti. Ecco, la mia modesta proposta, ma non è proposta, è un argomento di discussione, proprio in questa direzione, proprio per impedire che un domani gli studenti che in maggioranza esprimeranno comunque un pensiero religioso, anche radicale, anche intransigente, possano dire l'ora di religione la vogliamo per noi. Forse sarebbe il caso di pensare da subito un'idea di scuola lievemente più laica. Se la scuola si mantiene laica, si preserva anche dal rischio che un domani sì, realmente si alzi qualcuno e dica insieme al prete ci deve essere anche l'imam, rifate il concordato. Stefano Morigi. Sì, è quello che provavo a dire poco fa. La scuola deve educare il pensiero critico, deve costruire e formare cittadini capaci di scegliere e anche di scegliersi i valori che poi imparano nelle proprie famiglie o nelle agenzie educative estranee alla scuola ed esterne alla scuola laica, quali gli oratori, le chiese o molti altri. Però una cosa importante, quando, che è emersa anche dall'audio che hai trasmesso poco fa, se si dice che la religione deve essere insegnata scientificamente, cioè come disciplina teologica da parte di docenti capaci, non capisco cosa c'entri l'educazione sessuale. L'educazione sessuale attiene una materia che è scienze. Allora l'audio che abbiamo prima sentito di un docente di religione che stava facendo educazione sessuale o aveva sbagliato aula o disciplina. Perché non insegnava i testi religiosi, non insegnava ermeneutica biblica, non insegnava la lettura storico-critica dei Vangeli sinottici piuttosto di quegli altri, e si stava occupando di una materia che non è la sua? Evidentemente tra il dire e il fare c'è il di mezzo al mare, e tra una lettera che dice che le religioni dovrebbe essere insegnate in maniera scientifica e la realtà in cui si assiste di fatto a delle lezioni di catechismo che invadono altre discipline, c'è un iato che andrebbe colmato o comunque corretto, anche perché, e qui non bisogna nasconderselo, l'etica cattolica ha spesso delle opinioni quantomeno, posso dire, bizzarre rispetto alle teorie scientifiche più accreditate. Ma poi è chiaro che l'Italia è lunga, il paese vasto, che poi alla fine ogni vescovo darà le sue direttive personali, gli insegnanti su quello che saranno le materie. Poi non mi sembra ci sia poi una grande affezione da parte degli studenti. Sì, c'è un sono pochissimi quelli che diciamo chiedono di essere esonerati da loro alla religione, ma chi rimane lì quanto poi segue attentamente le lezioni di religione. Delia, buongiorno. Buongiorno. Sì. Volevo dire che almeno negli ultimi decenni, cioè chi ha insegnato religione non c'aveva un titolo specifico. Ma lei cos'è, un insegnante? Io sono stato insegnante, ma non di religione. Quindi il discorso è questo, cioè veniva la religione veniva fatta dalle suore o dai sacerdoti? No, vabbè, anche da insegnanti laici. Però Delia, non vorrei, sennò diventa una trasmissione di sindacalese. Mi sembra aver capito che il tema è un po' più ampio, una riflessione un po' più ampia, perché prescinde dal fatto che ci siano o non ci siano in questo momento i posti di lavoro per gli insegnanti di religione, che devono mantenere naturalmente, anche loro hanno diritto a lavorare, però è su quello che si fa in quell'ora lì. Stella. Dunque, mi scusi, io volevo soltanto fare una denuncia, aspettavo da tempo di poter parlare di questo. Qualche anno fa, parecchi anni fa, mia figlia attraverso un concorso interno fatto dalla diocesi di Palestrina, perché allora gli insegnanti di religione venivano scelti così, ha avuto l'incarico, ha vinto questo piccolo concorso. Questo chi? Questo fatto. Chi? Sua figlia? Sì, mia figlia. Ha vinto questo incarico, gli è stata data. Ma quanti anni fa? Quanti anni fa? Diciamo una ventina forse. La denuncia fa dopo vent'anni? Se ne fa no, no, non è una denuncia, io non faccio nessuna, voglio portare a conoscenza attraverso la sua trasmissione di questa cosa, perché poi le nostre cose, le nostre denunce le abbiamo fatte, perché stiamo chiudendo, le nostre lotte le abbiamo fatte, però volevo attraverso la sua trasmissione dire questo. Dunque, il vescovo per scegliere, ossia magari segnalare questi insegnanti di religione, chiede una mazzetta, perché io l'ho chiamata e la chiamo così, di uno stipendio l'anno da parte del professore scelto. Vabbè, e se uno non dà questo stipendio, con qualche scusa, con qualche sistema, gli revocano l'incarico. Ma perché la chiama mazzetta? Scusi, il termine è brutto. Diciamo, è questo, come i partiti chiedono comunque un contributo dello stipendio. Ma la religione, caro signore, questo la dice lunga sulla capacità di insegnamento. Stella, non cerchi di essere più realista del re. Ho capito, bene, sì, è una cosa che senza nessun elemento certo ha il senso di facezza e diceria per me. Che un vescovo abbia detto agli insegnanti dovete dare uno stipendio come benefattori, può essere. Lascio chiudere appunto a Orazio Ruscica, così fa un po' di elementi per dire la sua, sennò sembra che lo voglio tenere alle corde. Ecco, su questa ultima cosa non gli do grande importanza, perché può essere che il vescovo abbia detto dai un contributo, che ne so, per le opere della chiesa, non lo so, ma poi roba di vent'anni fa, non starei manco. Ma sì, dottore, cioè quest'ultimo aspetto è legato tecnicamente, la signora sbaglia, è che chiedono qualche diocesi, ma oggi non un'offerta, non ecco. Così un contributo per organizzare corsi di formazione durante l'anno. Come fanno i partiti? La stessa cosa. Ma guarda, nell'ordine di 30-50 euro. Vabbè. Non di più, abbia pazienza, cioè questo non è. Non lo trovo scandaloso, sinceramente. Appunto, per organizzare i corsi di formazione durante l'anno è una cosa. Però le faccio la domanda, proprio per cui vi ponete voi un problema un pochino più generale, al di là del posto di lavoro, che è giusto. Volevo dire che mi sento di concordare con quanto dice il professor Morigi, perché l'insegnamento della religione oggi è un insegnamento che viene proposto a dei cittadini e non a una categoria di persone. E quindi è un insegnamento che è curvato secondo le finalità. Ma vi ponete scuola. Questo problema che, sta un po', che è cambiata la società? Questo volevo dire. No, è cambiata. Tant'è che oggi l'insegnamento della religione è lecito uno degli obiettivi molto recenti delle indicazioni nazionali per insegnare la religione. È distinto dalla catechesi, cioè l'insegnamento della religione offre agli studenti contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza. Ma a voi cambierebbe qualcosa? Nel confronto, nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni. Sì, vabbè, ma quello. Fra cristianesimo e altri sistemi. Sì, però vi posso fare una domanda? Tanto stiamo per concludere. Vi cambierebbe qualcosa se un domani cambiasse la legge, cambiasse il concordato? Voi rimaneste e manteneste il posto di lavoro, ma non fosse più il vescovo a decidere quello che dovete dire. Per voi cambierebbe qualcosa? No, noi continueremo a insegnare la religione cattolica, per noi va bene così perché è un patrimonio della nostra cultura. Continuereste a fare quello che fate, va bene. Bene, ho capito, pensavo che dicesse faremo qualcosa di più ampio, di più legato a quello che è il mutare della società, però mi sta bene, questo è il suo punto di vista, io mantengo il mio. Alla prossima.